Do la parola alla professoressa Gatti, ringraziandola di essere intervenuta oggi. Buongiorno. Recentemente ho partecipato ad un convegno di bioetica sul tema neonati e terapie intensive neonatali e mi sono resa conto subito che il grande assente era proprio il neonato. Sia i bioeticisti cattolici che razionalisti laici, pur partendo da argomentazioni diverse, annullano l'evento nascita, non cogliendone il significato. Embrione, feto, neonato sono un continuum, solo il respiro differenzierebbe il neonato dal feto. Non si sente? Lo devo tenere. Per i bioticisti cattolici lo zigote è già un essere umano, un individuo che diventerà persona con la ragione e si utilizzano, nel caso che avvenga una interruzione di gravidanza volontaria, il termine feticidio, che a quanto è improprio, in quanto ha un'assonanza con il termine omicidio. Il feto non è vita umana, ma solo una potenzialità e quindi non è una realtà di vita umana. Anche per i bioticisti laici non c'è alcuna differenza fra feto e neonato. Per loro l'essere umano è caratterizzato dalla ragione e si può considerare persona quando raggiunge la coscienza riflessiva. E si può anche dissertare, secondo loro, con una logica estrema, visto che neonato e feto sono uguali, che uccidere un neonato equivarrebbe pertanto ad effettuare un'interruzione di gravidanza. Ambedue i bioticisti cattolici e laici non considerano i risultati della più recente ricerca biologica, a cui pretenderebbero di dare protocolli di comportamento. Nessuno può continuare ad ignorare che la nascita è una cesura radicale fra stato fetale e stato neonatale, che si determina quando lo stimolo luminoso, nella retina e nel cervello, attiva i geni ad azione immediata, modificandone la fisiologia. Emergono conseguentemente capacità di pensiero non presenti in utero, come affermato nel 1972 nella teoria della nascita di Massimo Fagioli. Alla nascita avvengono dei cambiamenti biologici fondamentali. Si passa da una biologia fetale finalizzata alla realizzazione di un progetto genetico ed epigenetico ad una biologia caratterizzata dalla reazione specifica agli stimoli. Emergono pulsioni, immagini, affetti e movimenti interni che consentono al neonato di realizzare un rapporto con un altro essere umano. La realtà psichica del neonato, che costituisce il fondamento originario dell'identità umana, non è riconducibile né alla coscienza e né alla ragione. Se non si pensa alla nascita come momento fondamentale e trasformativo, si attribuisce alla realtà psichica umana una valenza divina o un'animalità cieca da controllare con la ragione. Per documentare le cose appena dette, entrerei in merito agli aspetti più strettamente neurofisiologici e quindi possiamo individuare due punti fondamentali nello sviluppo della corteccia, le 24 settimane e la nascita. A 23-24 settimane si definiscono i limiti biologici della possibilità di sopravvivenza del feto fuori dall'utero. E questo è dovuto in prima istanza all'immaturità cerebrale e secondariamente all'immaturità polmonare. A partire dalla 23esima-24esima settimana c'è la capacità, compare nel feto, qualora nasca, la capacità di reagire ad uno stimolo esterno. E questo è dovuto al fatto che si forma la zona supplete, la retina, le vie retino-occipitali, le connessioni talamo-corticali somatosensoriali e per queste strutture anatomiche compare un'attività elettrica cerebrale endogena denominata SATS. Quindi a 23-24 settimane di gestazione le connessioni talamiche raggiungono la zona supplente. Si tratta di uno spesso e denso network neuronale che si sta sviluppando sotto la corteccia. È una zona di attesa e di guida delle afferenze che dal talamo vanno, si dirigono alla corteccia cerebrale, organizza la strutturazione dei substrati corticali e determina la specificità funzionale dei neuroni che l'attraversano, oltre la loro localizzazione. È essenziale la zona subplate per connettere i centri periferici con i centri superiori. Rende possibile la capacità di reagire ad uno stimolo. È possibile vedere anche con le ecografie che in epoche precoci della gravidanza ci sono dei movimenti fetali. Noi sappiamo che i movimenti embrionali e fetali sono schemi motori automatici e complessi, self-generated. Essi compaiono prima che siano presenti le connessioni talamo-corticali, prendono origine dal midollo spinale e sono regolate dal tronco encefalico. La comparsa di tutte, cioè la presenza di tutte queste organizzazioni anatomiche fanno in modo che compaia un'attività, è possibile registrare intorno alla 24esima settimana un'attività elettroencefalografica dovuta ai potenziali scaricati da neuroni della zona supplete e da neuroni corticali. Questo risultato si è reso possibile negli ultimi anni in quanto un gruppo di scienziati ha adottato una nuova tecnica sperimentale di eseguire l'elettroencefalogramma chiamato DC coupling, con cui è stato possibile registrare da neuroni fetali immaturi un'attività elettrica denominata SATS, Slow Activity Transient, che è endogena, spontanea, in quanto non evocata, ma prodotta spontaneamente da neuroni, e transitoria perché scompare dopo la nascita, sostituita da un tracciato continuo oscillatorio proprio del neonato. Dalle ricerche neurobiologiche e elettroencefalografiche è ormai chiaro che esiste una differenza fra tracciato elettroencefalografico fetale, che è l'espressione di un'attività neuronale spontanea, endogena, finalizzata alla strutturazione della corteccia e le connessioni talamo-corticali e cortico-corticali, denominata SATS, e un tracciato proprio del neonato denominato oscillatorio continuo, che è il risultato di un'attività neuronale di elaborazione degli stimoli e della comparsa dell'attività psichica. Quindi, nel feto non vi sono differenze tra ciò che è endogeno e ciò che è evocato in termini di risposta elettrica, a confermare come gli stimoli non siano finalizzati alla trasmissione delle informazioni, bensì all'organizzazione somatotopica, sia genetica che epigenetica, della neocorteccia, dell'ippocampo, del midollo spinale e della retina. Questa attività immatura, endogena, è presente anche nelle cellule ganglionari retiniche e servono per connettere la retina al corpo geniculato e alla corteccia occipitale. 24 settimane la retina e le connessioni con la corteccia occipitale sono strutturalmente presenti. Ora passiamo a considerare il secondo punto importante nello sviluppo del funzionale della corteccia, la nascita. Il cervello umano è a predominanza visiva e il 70% delle aree cerebrali è implicato nell'elaborazione degli stimoli visivi. La stimolazione della retina da parte della luce alla nascita è un punto fondamentale nel determinare l'attivazione della corteccia cerebrale, seguendo questi punti. La stimolazione luminosa determina l'attivazione degli immediate early genes, che inducono lo switch poi dei neurotrasmettitori. L'attivazione degli immediate early genes avviene nella retina e in tutto il cervello attraverso terminazioni nervose sia dirette che riflesse, e come conseguenza dell'attivazione di questi immediate early genes si ha lo switch della funzione dei neurotrasmettitori. Il fotone inoltre anche stimola le terminazioni noradrenergiche e conseguentemente il locus ceruleo. Dal locus ceruleo partono altre diramazioni che si diffondono su tutto il cervello, per cui quindi questo stimolo contribuisce all'arousal cerebrale, ma alcune terminazioni che raggiungono la corteccia occipitale cambiano la funzione dei neurotrasmettitori da fetale a neonatale. Lo switch della funzione dei neurotrasmettitori determina il passaggio da una funzione trofica nel feto ad un'attività stimolo dipendente nel neonato e di conseguenza ad un'attività di elaborazione stimolo dipendente nel neonato, che ha come conseguenza, e da questo deriva che si ha il passaggio da un tracciato elettroencefalografico fetale con un'attività endogena spontanea e transitoria nel feto ad un tracciato continuo oscillatorio nel neonato, dovuto appunto allo switch dei neurotrasmettitori. Gli immediate early genes sono un gruppo di geni la cui induzione, nella maggioranza dei casi, è in diretta risposta ad un input sinaptico. La funzione principale degli immediate early genes alla nascita è quella di indurre, a seguito della stimolazione luminosa, il passaggio dei neuroni da una forma immatura a una forma matura. Si verifica infatti uno switch, una modificazione della funzione dei neurotrasmettitori. Il fotone, inoltre, induce la stimolazione degli immediate early genes nella retina, nel nucleo soprachiasmatico e nella corteccia visiva, con varie modalità di espressione rapida, ritardata e strutturale persistente. Nella retina compaiono soprattutto quelle persistenti, ma anche quelle rapide. La stimolazione luminosa, come ho già detto, attiva le fibre noradrenergiche, che attivano anche il locus ceruleo. Dal locus ceruleo raggiungono tutto il cervello e attivano nella corteccia visiva l'immediate early gene con l'espressione della proteina Cross24 nella corteccia occipitale, cambiando la struttura della corteccia cerebrale a lungo termine, quindi facendola passare da uno stato fetale a uno stato neonatale. I recettori modulano la funzione dei neurotrasmettitori nelle varie finestre spazio-temporali dello sviluppo del feto. I recettori possono essere metabotropici lenti e sono presenti soprattutto nel feto ed esprimono un'attività neuronale con meccanismi temporali approssimativi e il loro correlato elettroencefalografico è un tracciato SATS. I recettori ionotropici veloci sono presenti alla nascita quando i network neuronali stimolo dipendenti operano ad un'alta precisione temporale. Allora, sono il glutammato e l'aspartato sono i più importanti neurotrasmettitori eccitatori del sistema nervoso, dei neuroni piramidali della corteccia. Nella corteccia visiva lo stimolo luminoso consente lo switch dalla forma immatura del recettore NMDA alla forma matura attraverso la variazione di una subunità, e questo consente una rapida trasmissione delle informazioni, mentre prima erano lente ed avevano una funzione unicamente trofica, cioè di sviluppo. Il GABA opera come neurotrasmettitore eccitatorio nei neuroni immaturi per una concentrazione elevata di cloro nelle cellule nervose. Alla nascita il GABA cambia completamente la sua funzione, diventando il principale neurotrasmettitore inibitorio. Tale variazione di funzione è secondaria all'espressione del cotrasportatore KCC2, indotta dall'esperienza visiva. Il controllo della luce nella polarità del GABA è un nuovo concetto nello sviluppo della visione ed avviene nelle sole specie con predominanza visiva. lo sviluppo affinché il cervello, ecco perché è importante il GABA come neurotrasmettitore inibitorio, perché è importante che affinché il cervello abbia la flessibilità necessaria per poter fare delle operazioni complesse, è necessario che siano presenti sia il sistema eccitatorio che quello inibitorio, e questo in utero non c'è. E questo è dovuto. Allora, il sistema così cioè definito inibitorio, forse anche impropriamente, perché i due concetti fisiologici di inibizione ed eccitazione vengono superati nella realizzazione di nuove organizzazioni temporali delle popolazioni neuronali, organizzazioni temporali non presenti nel feto. E la rete interneurale GABAergica agisce come un orologio che fornisce un segnale di temporalizzazione all'insieme dei neuroni, e questo non è presente in utero. Questo è confermato dal fatto che le SATS sono un fenomeno prevalentemente confinato allo stato prenatale. La loro scomparsa è direttamente correlata alla maturazione del sistema neurotrasmettitoriale e alla conseguente formazione del ritmo continuo oscillatorio. E per concludere, il cambiamento della funzione cerebrale è il punto chiave della nascita. Il respiro è una conseguenza di questo cambiamento. Per concludere, alla 24esima settimana abbiamo la comparsa della capacità di reagire grazie alla formazione della retina, della split zone e delle connessioni talamo-corticali. Alla nascita si ha una cesura fra stato fetale e stato neonatale. Lo stimolo luminoso determina lo switch dei neurotrasmettitori, la sincronizzazione delle popolazioni neuronali con formazione del ritmo oscillatorio continuo. Questo rende possibile la nascita del pensiero umano, ovvero la capacità di immaginare. La comprensione dei meccanismi neurofisiologici della nascita umana non sarebbero mai stati possibili senza la ricerca e la teorizzazione di Massimo Fagioli.